un giudizio. Io sono uguale inadeguata. Perché nasce questo giudizio? Sembrerebbe perché certi problemi che vorrebbe risolvere non li risolve, quindi sono inadeguato. Non risolvo certi problemi, sono inadeguato. Ho questa convinzione, non risolvo questi problemi. Se cambi, avendo questa convinzione, non puoi risolvere certi problemi. Infatti, cosa fai quando hai queste convinzioni? Ti chiudi e scappi. Quindi in pratica con questa convinzione fa sì che le tue risorse vengano cancellate. Allora guardate come questi giudizi agiscono. Quando lei crede questo, si comporta in modo tale da non risolvere i problemi. Giusto? Dopodiché che ha fatto questo, si giudica perché non li risolve. Quindi noi crediamo di avere una convinzione in conseguenza delle esperienze di vita che facciamo. In realtà è il contrario. Abbiamo certe esperienze di vita perché abbiamo certe convinzioni. Queste convinzioni non ce le siamo fatte costruite in base alle esperienze, le abbiamo ricevute. Questa è proprio la natura del doppio legame. Il doppio legame è molto semplice da capire. Abbiamo un impulso a fare qualcosa che è sano, c'è un'autorità che dice no, un'autorità falsa, qualcuno più grande, falso, qualcuno che noi mettiamo sul piedistallo, che però non è autorità, questo impulso si perverte e facciamo il contrario. Per esempio qualcuno può avere una bella curiosità, fa delle domande, si guarda intorno, poi arriva qualcuno e dice no. Bambini bravi non fanno delle domande, stanno buoni e ascoltano. No! Allora, questa che era curiosità originariamente, cosa diventa? Inibizione. Ok? Poi cosa fa questo che ti ha detto no? Ma non ti esprimi mai, ma sei sempre chiuso. Io ti metto la droga in tasca. Poi passo, metto il cappello alla polizia, scusa un attimo, mi fai vedere cosa c'è in tasca? La droga! Galera. Oppure tu sei piccola, io vengo lì, ti spaventa morte, poi alla fine dici, ma sei una caga sotto, no? Ma sono cose vere. Allora, se tu sei piccola, io sono tuo padre, hai due possibilità. O credi alle tue emozioni, o credi a me. Se credi alle tue emozioni, sei messa male, perché contemporaneamente non credi a me. Ma siccome da me dipende la tua vita, capisci che sei messa parecchio male. Allora ti conviene credere a me, però perdi fiducia in te stessa. Quindi sbagli sia se perdi fiducia in se stessa, sia se perdi fiducia in me. Sei dentro un doppio legame, cioè qualunque azione tu compia, qualunque decisione prendi, la sbagli. Capite com'è che diventiamo handicappati in certe parti di noi? Quindi l'oppressione umana non finisce fino a che non capisco che opprimere qualcuno vuol dire opprimere me. Questo io diviso, tu sei separato da me, io non sono te, e allora io su di te posso fare quel che voglio, anche opprimerti, sedurti, fare quello che fare. Questa cosa che è la fine dell'etica, capisci? Perché vuol dire la chiusura a te, l'etica è l'apertura, la chiusura di te proprio, non me ne importa niente, è praticata a partire dall'infanzia, da parte di genitori inconsapevoli, da parte di insegnanti inconsapevoli, è stato fatto, è sempre stato. Adesso va forse un po' meglio per certi aspetti. Nell'Ottocento c'era la cosiddetta pedagogia nera, che voleva dire spezzare la volontà dei bambini. Il bambino ha una volontà, gliela devi distruggere, spaccargli, perché il bambino è perverso. non è un'invenzione, è veramente durissima, è stata. Ecco. Noi abbiamo quindi un karma dell'umanità che dipende da queste visioni. I bambini erano considerati proprio niente.